Forse venderò libri usati nel tuo botteghino. No, questo no. Perché? È un buco. Non c'è spazio per muoversi. E io non c'è una persona che mi aiuta. L'ho vista. È una specie di mucca. È la signora Peroni. Una volta era governante in casa di Ada, mia moglie. Chiamami Peroni. Sarò la tua birra. Anzi no, sarò la tua mucca. Erano in Trastevere, in una piazzetta con una fontana. Elisabetta scese col cane. «Ciao, Elisabetta», disse Osvaldo. Elisabetta si infilò nel portone di un palazzetto rosso. Scomparve. «Non ha quasi sillabato parola», disse Mara. «È timida. Timida e maleducata. Il bambino non l'ha nemmeno guardato, come se non ci fosse lì niente. Ma mi piace il colore di quella tua casa». «Non è la mia casa. Lì sta mia moglie, con Elisabetta. Io sto solo». «Lo so, l'avevo dimenticato. Parli sempre di tua moglie. Io non me ne ricordo che stai solo. Anzi, dammi il numero di casa tua. Io ho solo quello del botteghino. Potrebbe servirmi qualcosa la notte. Ti scongiuro di non telefonarmi la notte. Ho il sonno difficile». «Non mi hai fatto mai salire in casa tua. Quest'estate, quando ci siamo incontrati per strada, avevo quell'enorme pancia e ti ho detto che volevo fare una doccia. Tu hai detto che non c'era acqua nella tua zona. Era vero? Stavo dalle Monache, si poteva fare la doccia solo la domenica. Com'è che eri finita dalle Monache? Perché pagavo poco. Ero prima sulla via Cassia, poi ho litigato con quei miei amici. Si sono arrabbiati perché gli ho rotto una cinepresa. Mi hanno detto di ritornare a Novi Ligure dai miei cugini. Mi hanno dato i soldi per il viaggio. Non erano cattivi. Ma io cosa facevo a Novi Ligure? Che i miei cugini non sapevano più niente di me da un pezzo. Se mi vedevano arrivare con quella pancia cascavano morti. Poi sono tanti in casa. Non hanno soldi. Ma lui è meglio di lei. Lui chi? Lui! Quello che sta sulla Cassia. La moglie attaccata ai soldi. Lui più gentile. Lui lavora alla televisione. Mi ha detto che appena avevo fatto il bambino mi dava un posto. Forse gli telefono. Perché forse? Perché mi ha chiesto se sapevo l'inglese bene e ho detto di sì. Ma non è vero, non so nemmeno una parola d'inglese. L'appartamento di Via dei Prefetti era fatto di tre stanze infilate una dentro l'altra. Nell'ultima stanza c'era una porta-finestra con delle tendine cenciose. La porta-finestra si apriva su un balcone affacciato su un cortile. Sul balcone c'era uno stenditoio con appesa una camicia da notte di flanella color lilla pallido. «Lo stenditoio mi fa molto comodo», disse Mara. «Di chi è la camicia da notte?» chiese Osvaldo. «Non mia. Io non sono mai venuta qui. L'appartamento è di una ragazza che conosco. A lei non gli serve. La camicia da notte non so di chi è. Non è sua perché lei non dorme con le flanelle. Anzi, non dorme nemmeno con la camicia da notte. Dorme nuda. Ha letto non so dove che i finlandesi dormono nudi e diventano robustissimi. Hai preso questo appartamento senza vederlo? Certo, non devo pagare. Me lo imprestano. Me lo impresta questa mia cara amica». Nell'ultima stanza c'era un tavolo rotondo con sopra una tela cerata a quadri bianchi e rossi e un letto matrimoniale con una coperta di ciniglia lilla pallido. Nella stanza di mezzo c'era un fornello, un lavandino, una scopa, un calendario appeso per un lungo, piatti e pentole sul pavimento. Nella prima stanza non c'era niente. «Tu intanto fai bollire», disse lei. «C'è tutto, mi hanno detto che c'è tutto. Una scodella, una tazza, una forchetta, un cucchiaio». «Non vedo forchette», Osvaldo disse. «Cristo, sono disgraziata con le forchette. Lo sbatterò col cucchiaio». «Non vedo nemmeno cucchiai, solo coltelli». «Cristo, io però ho un cucchiaio di plastica, me l'ha regalato la riccioluta. Solo che non si può far bollire, si scioglie. Con la plastica è questo il male». Tirò su il bambino dalla valigia e lo posò sul letto. Era un bambino con dei lunghi capelli neri. Era tutto ravviluppato in un asciugamano a fiori. Si stirava. Dall'asciugamano uscirono fuori due piedi calzati in enormi scalferotti azzurri. Sei anche disgraziata con le seggiole, disse Osvaldo. Uscì sul balcone e prese una poltrona di tela con il fondo strappato. La portò dentro e si sedette lì. Sono disgraziata con tutto, disse lei. Si era seduta sul letto, si era sfilata la maglia e allattava. Pesarlo però non l'hai pesato il bambino, lui disse. Come lo peso che non ho bilancia? Devo fare a idea. Vuoi che vada in farmacia a prenderti una bilancia a nolo? Sei disposto a pagarmi il nolo di una bilancia? Sì, sono disposto. Ti credevo tirchio. Mi hai sempre detto che sei tirchio e povero. Mi hai sempre detto che non hai niente e che anche il letto dove dormi la notte appartiene a tua moglie. Infatti sono tirchio e povero, ma disposto a pagarti il nolo di una bilancia. Dopo, ci andrai dopo. Adesso non ti muovere da quella poltrona. Mi piace avere qualcuno vicino mentre sbatte il latte in polvere. Ho paura di fare qualche sbaglio, che vengano dei grumi. Alla pensione avevo la riccioluta. La chiamavo e veniva subito. Però di notte no, non veniva. Io non posso stare in eterno qui, lui disse. Più tardi devo andare da mia moglie. Siete divisi. Cosa ci vai a fare da tua moglie? Vado per stare un po' con la bambina, poi anche per stare con lei. Vado a trovarle quasi tutti i giorni. Perché siete divisi? Perché per vivere insieme eravamo troppo diversi. Diversi come? Diversi. Lei ricca, io povero. Lei molto attiva, io pigro. Lei con la mania dell'arredamento e tu senza la mania dell'arredamento. Senza. Quando l'hai sposata speravi di diventare più ricco e meno pigro? Sì. Oppure speravo che lei diventasse più pigra e più povera. E invece niente. Niente. Qualche sforzo lei l'ha fatto per diventare più pigra, ma soffriva. Quando stava sdraiata, intanto continuava a mulinare progetti. A me sembrava di stare accanto a una pentola che bolliva. Che progetti erano? Oh, lei ha sempre dei progetti. Case da rimettere in ordine, vecchie zie da sistemare, mobili da verniciare, garage da trasformare in gallerie di quadri, cani da accoppiare con altri cani, fodere da tingere. E tu che sforzi facevi per diventare meno pigro e più ricco? Sul principio ho fatto qualche piccolo sforzo per diventare un poco più ricco. Però erano sforzi molto fiacchi e molto goffi. Ma a lei non interessava tanto che io guadagnassi dei soldi. Lei voleva che io scrivessi dei libri. Lo voleva, lo diceva, lo aspettava. E questo per me era tremendo. Bastava che tu le dicessi che non avevi libri da scrivere. Io non ero così sicuro di non avere dei libri da scrivere. Certe volte pensavo che li avrei scritti se lei non li avesse aspettati. Ma avevo sempre intorno quella sua attesa ostinata, benevola, enorme, ingombrante. Me la sentivo sopra perfino nel sonno. Mi ammazzava. E allora te ne sei andato. Tutto si è svolto con una calma incredibile. Semplicemente un giorno le ho detto che desideravo vivere di nuovo solo. Non mi sembrava stupita. Ma da tempo quella sua attesa si era come afflosciata. Lei era su per giù sempre uguale, solo che le erano venute due piccole rughe agli angoli della bocca. E il botteghino è di tua moglie anche il botteghino? No, quello di mio zio che vive a Varese. Però ci sto dentro da tanti anni che mi sembra che sia mio. Tu però lo stesso non hai scritto libri quando sei andata a vivere solo. Si vede che sai solo venderli i libri. Quelli degli altri. Io lo stesso non ho scritto libri, è vero. E come lo sai? Me l'ha detto Michele. Mi ha detto che sei pigro e non scrivi niente. È vero. Mi piacerebbe che tua moglie venisse qui e mi arredasse questo appartamento. Mia moglie? Tua moglie, sì. Se trasforma i garage, può trasformare tutto anche qui. Mia moglie. Mia moglie verrebbe subito. Porterebbe dei muratori, degli elettricisti. Cambierebbe però anche tutta la tua vita. Metterebbe il bambino in un asilo nido. Ti manderebbe a una scuola d'inglese. Non ti darebbe più pace. Butterebbe via tutti questi vestiti che porti. La casacca coi draghi la butterebbe nell'immondezzaio. che invece è tanto carina, lei disse. Non è il suo genere, la casacca coi draghi. No, non è il genere di Ada. La riccioluta mi ha detto che forse potrei andare con loro a Trapani. Suo marito è a Trapani e mette su una tavola calda. Se gli andasse bene mi darebbero un posto. Hanno bisogno di qualcuno che tenga i conti. Sai tenere i conti? Quasi tutti sanno tenere i conti. Ma tu forse no. La riccioluta invece pensa di sì. Mi darebbero una camera nel loro appartamento, sopra la tavola calda. Oltre a fare i conti, dovrei tenere in ordine la casa e guardare il loro bambino insieme col mio. È una tavola calda vicino alla stazione. Certe volte con queste tavole calde si guadagnano dei miliardi. Sei mai stata a Trapani? Mai. La riccioluta è un po' spaventata. Non sa come si troverà a Trapani. E poi non sa come andrà questa tavola calda. Suo marito ha già fatto fallire 2 ristoranti. I soldi sono di lei. È anche andata con suo marito da un mago. Questo mago gli ha detto che dovevano tenersi lontani dalle città del sud. E allora? Allora niente. A lei sono venute le strasistole. Dice che le darebbe un grande conforto avermi vicino. Se non saprò cos'altro fare, ci andrò. Non te lo consiglio. Mi consigli qualche altra cosa? Non ti consiglio niente, non do mai consigli a nessuno. Stasera vedrai Michele? Non lo so. Non ti aspetterai dei consigli da Michele? No, però mi piacerebbe che venisse qui. Non lo vedo da tanto tempo. Sono andata a trovarlo nel suo scantinato. Avevo ancora la pancia. Erano gli ultimi giorni della pancia. Gli ho detto che volevo fare la doccia, ma ha detto che non c'era acqua calda. L'acqua fredda, secondo lui, mi faceva male. Sei disgraziata con la doccia. Io non so con cosa non sono disgraziata. Quando è nato il bambino gli ho telefonato. Mi ha detto che veniva, ma non è venuto. Ho anche scritto a sua madre qualche giorno fa. Hai scritto a sua madre? Ma cosa ti è preso? Così, la conosco. Una volta l'ho vista. Le ho dato l'indirizzo della pensione. Pensavo di restare lì, poi ho cambiato idea. Ho detto alla riccioluta che se mi arrivano lettere le rispedisco al tuo botteghino. Non ho voluto darle il mio indirizzo qui alla riccioluta, se no magari mi capitava qui. Io alla riccioluta ho detto qualche bugia. Le ho detto che andava a stare in un delizioso appartamento, con il cotto in qualche stanza e in qualche altra la moquette. Le ho detto che andava a stare con un mio fratello antiquario. Ti ho fatto diventare antiquario. Invece sei solo un libraio di libri vecchi. Soprattutto mi hai fatto diventare tuo fratello. Sì, per la verità ho un fratello, ma è piccolo. Ha 11 anni, si chiama Paolo. Vive con quei cugini. Il bambino l'ho chiamato Paolo Michele. Io, sai, potrei fargli un processo a Michele, perché sono minorenne. Se gli facessi un processo, dovrebbe sposarmi. Vorresti sposare Michele? No. Mi sembrerebbe di sposarmi con quel mio fratello piccolo. E allora perché vuoi fargli un processo? Non voglio fargli un processo, non me lo sogno nemmeno. Dico solo che se volessi, potrei. Va a guardare se quella pentola bolle. Bolle da un pezzo, lui disse. Allora spegni. Tu non sei minorenne, lui disse. Hai 22 anni. Ho visto la tua carta d'identità. Sì, è vero. Ho 22 anni finiti a marzo. Ma com'è che hai visto la mia carta d'identità? Me l'hai data tu. Volevi farmi vedere com'era brutta la fotografia? È vero, adesso mi ricordo. Io spesso racconto bugie. Mi pare che racconti delle bugie inutili. Non sono sempre inutili. Certe volte c'è sotto uno scopo. Quando ho detto alla riccioluta che qui c'era la moquette, era perché volevo che mi invidiasse. Ero stufa di farle pena. Uno si stufa di fare sempre pena alla gente. Poi certe volte siamo così a terra che l'unico modo di sentirsi meglio è inventare balle. Tu mi hai detto che non lo sai se questo bambino è di Michele. Infatti non lo so. Non ne sono sicura al 100%. Ho l'idea che sia suo. Però andava a letto con un sacco di uomini in quel periodo. Non so cosa m'era preso. Quando ho scoperto che ero incinta, ho pensato che lo volevo il bambino. Ero sicurissima che lo volevo. Non ero mai stata tanto sicura di niente. Ho scritto a mia sorella, a Genova, e mi ha mandato i soldi per abortire. Le ho scritto che tenevo i soldi, ma non mi andava di abortire. Mi ha risposto che ero pazza. Non puoi far venire questa tua sorella qui? Non hai una persona che puoi far venire qui? No, questa mia sorella ora ha sposato un perito agrario. Le ho scritto quando è nato il bambino. Mi ha risposto lui, questo perito agrario, che io non l'ho nemmeno mai visto. Mi ha scritto che loro si trasferiscono in Germania. Mi ha scritto di andare sulla forca. Non proprio così, ma quasi. Capisco. Una donna quando ha fatto un bambino ha voglia di farlo vedere a tutti. Così mi piacerebbe che lo vedesse Michele. Siamo tanto amici. Andiamo a pensare a me di vedere le cose più belle. Certe volte lui è così divertente. Io andavo con altri uomini, ma con lui mi divertivo. Figurati se voglio sposarlo. Mai passato per la testa. Non sono mica innamorata di lui. Sono stata innamorata una volta sola, a Novi Ligure, del marito di una mia cugina. Non ci ho mai fatto l'amore. C'era sempre mia cugina. Michele dice che ti procurerà dei soldi. Li chiederà ai suoi. Verrà. Una volta o l'altra verrà. Però dice che i bambini appena nati gli fanno impressione. I soldi li voglio. So che ti ha detto di essere gentile con me. Tu però saresti gentile lo stesso, anche se lui non te l'avesse detto. Sei gentile per tua natura. Strano, io con te non ho mai fatto l'amore. Non mi è mai passato per la testa. E a te nemmeno, direi. Certe volte mi chiedo se non sei frocio. Ma ho l'idea di no. No, disse lui. Però non ti passa per la testa di fare l'amore con me. Non mi passa per la testa. Mi trovi brutta? No. Carina? Carina. Però non ti attiro. Ti lascio indifferente. A dire la verità, sì. Vai sulla forca, lei disse. Non è mica bello sentirselo dire. Il bambino dorme, non mangia più, disse Osvaldo. Già, è tremendo questo bambino. Non è tremendo per niente, non fa che dormire. Anche quando dorme è tremendo. Lo so che mi sono cacciato in un guaio. Non credere che non lo so. Cosa ti succede? Adesso ti metti a piangere? Vai a sbattere il latte. Io non ho mai sbattuto latte in vita mia, disse Osvaldo. Non importa! Leggiti le istruzioni sulla scatola! Aiutami, Cristo!